parlare di cosa? Di parlare di quello che è successo dalla fine della mostra ad oggi? Ad oggi? Cosa è successo dalla fine della mostra ad oggi? No, più che altro raccontaci che per quelli che non sanno, dicono chi sono sti disadattati, raccontaci che cos'era Oreste, che cosa, esatto. Ma in realtà sì, noi ci siamo incontrati durante la mostra, perché Oreste, la mostra No Oreste No al Mambo, raccontava di questo gruppo di artisti degli anni 90, un gruppo diciamo che non è stato ben definito, ma a livello di numeri, perché parliamo anche di quasi anche 300 artisti, che ha lavorato più che altro per ridefinire quello che era quello che è l'artista all'interno del sistema dell'arte, quindi mettendo in crisi, questionando quelli che erano degli aspetti relativi al valore dell'opera, piuttosto al ruolo appunto dell'artista, al ruolo del curatore, non facendo mai delle mostre, ma essendo comunque invitato a delle mostre, perché per esempio una delle parti importanti al Mambo erano i documenti relativi ad Oreste durante la Biennale del 99, quando fu invitato da Zeman. Oreste quindi era fondamentalmente un gruppo fluido di persone che lavorava sull'incontro, sul dialogo, sulla relazione. Infatti tuttora potremmo definirlo uno degli esperimenti di arte relazionale fondamentalmente più interessanti in Italia. Da lì sicuramente Oreste è stato il precursore di tutta una serie di pratiche, potremmo dire, che tuttora sono in corso, dagli spazi indipendenti agli spazi appunto anche no profit, e da lì quindi anche la rivisitazione, potremmo dire, in chiave contemporanea di Oreste di oggi è stata quella di invitare poi all'interno della mostra che esponeva l'archivio anche oggi chi lavora seguendo diciamo questi aspetti, in particolar modo appunto relazionali, che riguardano la potremmo dire la contemporaneità e il dialogo in particolar modo. E da qui ci siamo incontrati proprio per questo, le domeniche al Mambo. Io ma mi come sono brave le curatrici. Hai visto? Ma cioè, come sono brave le curatrici. Cioè uno fa ma lo vogliamo dire quanto sono brave le curatrici? No. Uno fa un programma. Ma le curatrici, tutte le curatrici del mondo. Uno fa un programma radio, basta chiamare delle curatrici. È programmata, non è programma radio, lei è programmata. Cioè, non i curatori, ma le curatrici. E funziona tutto da solo. Adesso mettiamo un pezzo a casaccio di, come si chiama lei? Stella Donnelly, giusto perché così io mi ripiglio un attimo, finisco di attaccare tutti i cavi. E puoi dire pezzo, per favore? Pezzo, eh? Doesn't know la canzone, io non ero pronto. E voi siete pronte? Siete nate pronte. Ah, ecco, ma oggi il mixer devo dire che è un po' appiccicoso. Non so che cosa abbiano fatto in questi giorni quando io e Fedra non c'eravamo. Intanto mi scuso con Fedra che la dovevo chiamare durante la sigla, ma non ci sono riuscito. E dunque, in realtà vi ho chiamato qui in qualità di continuatori di quello che non è tanto il progetto Oreste in sé, ma la tipologia di azione che è di Oreste, no? Cosa ne dite? Io passo la parola a loro a questo punto. No, puoi anche dire tu. Innanzitutto, vabbè, diciamo anche che stiamo aspettando una orestiera originale, che è Annalisa, esatto, Cattani, che una volta che poi arriva non smetterà più di parlare, ci, esatto, toccherà di, quindi dobbiamo affrettarci. Esatto, di spegnere i microfoni prima di... Ma quello che a me è piaciuto molto di questa mostra, infatti, sono stati proprio gli incontri domenicali, oltre al fatto che appunto per me bastava attraversare la strada in ciabatte e poi venire a sentire cosa raccontavate. E questa, anche la modalità di azione era molto... perché se un gruppo comunque non fa opere, l'altra, cioè, cosa mettevamo in mostra? Oltre l'archivio si è pensato di mettere ovviamente all'interno dello spazio delle persone, perché era l'unico modo poi per creare o ritrovare quell'elemento vivo che altrimenti non ci sarebbe stato, perché comunque l'archivio porta in sé, diciamo, quel senso di polvere, un po' lo ha di per sé, e quindi portare queste persone è stato sicuramente un modo per riattivare il dialogo e per riportare al presente quelle che sono anche, a loro magari chiederei anche quali sono state le differenze rispetto a come si operava negli anni 90 rispetto ad oggi, come vedono loro questa azione, il dialogo. Poi interessava moltissimo come la parola entra nell'arte all'interno di questo, quindi non lo so, c'è qualcuno che è stato invitato anche, parlo di Croppa oggi, allora ha proposto proprio una tavola sulla diciamo sul trovare il nome giusto dello noi spazio. Negli anni 90 non eravamo nati. Addirittura nati, ecco. No, eravamo nati negli anni 90. Cominciamo subito con il farci sentire molto vecchi. E vabbè, queste sono le cose che fa parte del gioco quando uno è vecchio. Vabbè. Dunque, voi non eravate nati negli anni 90 e beati voi, ma però non lo so, poi lì dipende dai punti di vista. Comunque, no, effettivamente, per esempio, io non conoscendo Fat Studio sono arrivato e c'era questo dibattito sul cambiamento del nome, che mi è noi sembrato... Noi negli anni 90 non eravamo nati, ma la domenica di Oreste, durante la quale ci siamo presentati senza nome, eravamo comunque persone polverose come gli archivi aperti di Oreste. E il nostro intento era assolutamente quello di coinvolgere il pubblico cittadino, il pubblico domenicale della prima domenica calda di quest'anno nel cercare coralmente un nuovo nome con cui battezzare il nostro spazio. Gli spazi indipendenti secondo noi hanno la necessità e hanno sono intrinsecamente di natura spazi polimorfi, quindi non necessariamente un nome deve rappresentare lo spazio fisico. Non siamo un brand, cioè viviamo, esatto, lo spazio, quindi non possiamo essere etichettati per più di tanto tempo con un nome, e soprattutto cioè le persone nello spazio cambiano, i sentimenti cambiano, le situazioni cambiano, e le opere cambiano, gli intenti cambiano. Sì, cambia, hai tagli di capelli, non il tuo, perché il gatto cambia tutto, esatto, però non ci possiamo neanche più chiamare Fluxus perché l'hanno già fatto. E dunque qual è l'alternativa? Intanto avete scelto Crop, che rispetto a Fat Studio, anche se posso dirlo in diretta che mi piace di più Fat Studio. Ah, puoi assolutamente dirlo. Scusate, io devo sempre essere coxico. Guarda con quanta indifferenza ti risponde Brighetti. Esatto. Ma sì, chi se ne frega, no, di quello che pensi. Però devo dire che abbiamo un logo che è molto mistico criminale, E siamo partiti un po' da questo logo che abbiamo disegnato insieme, che probabilmente, non so, verrà inglobato in una nuova setta o qualcosa del genere, che ha una modalità un po' strana. E la crop sei tu. Mistico criminale, suona bene. No, ci divertiamo moltissimo invece con questo nome, perché creiamo dei tautogrammi quando andiamo a cena, ed è un nome che alla fine si riferisce anche a quello che vediamo davanti a casa, al posto un dove siamo, cioè un campo coltivato dove ti segna le stagioni, che segna un po' anche i nostri cicli produttivi artistici. E che c'è? Vuoi la cuffia? È molto c'ho carina. Una canzone. No. Ah, non ce l'avevi? No. Ah, per cui lei non si. Ah, perché io ti stavo interrompendo con. Ok, no, ma va bene così. Vai tranquilla. E dunque? Che cosa ne sarà di crop? Cioè, scusa, intanto mi scuso con i nostri ascoltatori che sentono più gli aerei che non noi parlare, ma se chiudiamo tutto moriamo e dopo non sentite più niente, perché saremo morti. Per quello cui... che sarà di crop sarà quello che è stato del nome precedente e quello che sarà del nome futuro. Non necessariamente crop rimarrà per sempre, come non è rimasto per sempre il nome precedente. Crop nasce anche da un'esigenza concettuale di raccogliere quello che si era seminato. E crop è, come possiamo definirlo, è un opificio produttivo e culturale. Mamma mia, cioè molto aulica questa cosa. Assolutamente, pretendiamo che lo sia, però sappiamo anche rimescolare nel basso e nel torbido, senza soluzione di continuità con quello che ho detto precedentemente. Posso fare una domanda da qua giù? Sì, certo, anzi, in realtà ne volevo fare una io a te, risposta secca, vai. Il nome più stupido che vi hanno inserito all'interno delle possibilità? Cazzo, non me lo ricordo. No, in realtà c'era da scegliere, c'era una scelta tra dei nomi che avevamo noi messo. Quindi non c'è uno che vi ha scritto una roba? No, ho scritto delle cose assurde, cioè sono arrivate delle... Perché tra le domande c'era la domanda da fare al pubblico, quale nome, avevate messo tre opzioni, giusto? Sì, che erano? Yellow Zone, Viva, che stava per Villaggio Vacanza, esatto. Perché è un po' esatto. Poi c'era... altra roba, non mi ricordo. Comunque era tutto molto estemporaneo, cioè nel senso che sono passati anni. Sì, forse sì. Forse erano gli anni 90. Invece la mia domanda per adiacenze è, abbiamo qui Daniela e Amerigo che rappresentano, che cosa secondo voi che cosa c'è di orestiano in adiacenze? Oh miseria, aiuto. Una domanda difficile. È difficilissima. No, anche perché poi bisognerebbe definire che cosa vuol dire. Impossibile. Impossibile. Allora, diciamo che secondo me, ma visto che noi due siamo persone molto differenti, lui ti dà una risposta opposta. Mm-hmm. Forse anche questo è molto orestiano. Ti posso, guarda, cioè, puoi parlare in la contraddizione. La contraddizione è orestiana, secondo me. E l'altra cosa che c'è è che sì, siamo io e Merigo che siamo i rimasti di quelli che hanno aperto a adiacenze. Quanti eravate? Al principio eravate in... Erano due, ma non erano rimasti. No, aspetta, sono passati da adiacenze una quantità di persone davvero non pari a quelle di Oreste, ma quasi. E anche questo è molto orestiano. Quindi adiacenze non siamo solo io e Merigo, ma sono tante persone che mettono la loro esperienza all'interno dello spazio, che decidono di rimanere, che se ne vanno, se ne sono già andati per altri lidi, fanno se la loro vita, torneranno. Ecco. Sì, io nel frattempo vi ricordo che il nostro numero di SMS, WhatsApp e Telegram è 333-180-94-94. Se qualcuno vuole fare delle domande a questi neo-orestiani o vecchi orestiani, lo potete però fare. Noi non abbiamo messo adiacenze nella domenica, cioè ce l'abbiamo messa. Noi abbiamo organizzato è vero. La performance dei fratelli Bro. Anche perché l'idea delle domeniche... è abbastanza orestale. La domenica era completamente a cura di queste... Cioè comunque io avevo... contattato queste persone dicendo te ne sei lavata esattamente le mani, io non ne volevo che sapere dicendo domenica fa sapere dopo averci lavorato per anni è la politica del suo un applauso parte. Alle curatrici no ormai è diventata una vabbè e, no no e loro hanno proposto ovviamente oh, quello ho, che era ho poi ho sentito un campanello è Annalisa ecco ora abbiamo finito in diretta, ora non parliamo più ciao ora è stato bello magari andiamo magari fai subito no cosa devo sennò... dire no stavi parlando tu aiuto non no no no dico che ogni domenica qualcuno io non ho assolutamente dato un tema o una traccia. Ognuno era libero di gestire quella giornata come credeva. No, ma infatti noi abbiamo chiamato i Fratelli Broche, che sono un collettivo di performer e artisti bolognesi, perché erano il gruppo che ci poteva che ci sembrava un po' più simile come idea di costituzione. E ciao Annalisa! Ciao Annalisa! Quella finale. Qua è molta anarchia, che bello. È abbastanza Annalisa, se non fai un selfie non ti riconosco. Immediatamente. Secondo te la mi raccomando. Immediata. Perché ci anche rimango questa male, serata è molto restiana. Sono restiana. Sì, poche tu. È un nuovo vocabolo. Potremmo inserire nella crusca. There's no music. Many things I put him say, I put him feel so guilty. Maybe I just would tell him that now I was so inspired. Maybe ask, but maybe I don't even want an answer. Silence. But it's not, there is some music all around that even rain that falls is quiet. Every rumble is mute, nobody say a word. Every little thing is static. In my loneliness so silent, I began to see him. An unearthed silence was in my eyes and in my life. Maybe for the first time I could see myself so silently. Come state, baby? Vai. No, Daniela. No, lei non ti sente. No, nessuno. Gli anni ci telefoniamo. Nessuno sa che è il 28 aprile con Saddam Hussein. Scusate. Mettetevi le cuffie perché noi abbiamo alzato i microfoni, così. Senza Daniela, mi senti? Sì. Sì, pronto, pronto. Chiesto a Pasquini se ha mai lavorato con le stampe 3D. A chi? A me. Non vi ho sentiti, scusate. Cioè, mando la prova ai miei colleghi. Hai mai lavorato con la stampante 3D? No, ho solo lavorato col 3D, ma non ho mai stampato. Molto bene. Molto bene. Ecco, potremmo coinvolgerlo. Potreste coinvolgerlo. Possiamo coinvolgere tutti. Vedi, stiamo lavorando come Oreste. Stiamo lavorando per noi. Questa continua a essere Radio Città Fujiko, continua a essere Coxo Spaziale e stiamo parlando di arte contemporaneissima perché deve ancora venire. Sì. Quasi. Ed è arrivata la nostra Orestia. La nostra Orestina originale, Annalisa Cattani, che è l'unica membra di l'unica membra original di Orestre. Non so come chiamarla. Bella membra, c'è molto membra. Curatrice, membra. Com'è andato il collegio dei docenti? Molto bello, molto bello. Un vero collegio. Un vero collegio. Appunto. Era più caldo o più fresco che qua? Molto più caldo. Ah, wow. Allora qui non va è male veramente per niente. Una spa. Una spa praticamente. Sì, è un po' rumorosa, però devo dire che ci si sta abbastanza. Ok. Non ho fatto la visita della patente, però, all'indietro. Ah, fantastico. Beh, cioè, diciamolo in radio, così non, così no, non ti ferma nessuno, no? No, ma torno con un amico. Allora, ecco, diciamolo in radio che il marito non ti ascolta, vero? Vabbè, io ho Giffo, come al solito, il nostro unico ascoltatore. Noi abbiamo un ascoltatore che ci scrive su Facebook. E la sua domanda è: la foto, esatto. Manda foto di Stegnocchi, ha scritto. Vai. Effettivamente c'è una fazione femminile contro una fazione maschile. Ah no, l'ha fatto anche lei. Dunque, no, stavamo parlando di come il metodo Oreste possa continuare. Chiedi a me? No, visto che tu hai esperito il metodo Oreste in maniera diretta, ma ne hai anche fatto uso nel tuo fare. Come sì, hai detto, devo dire, hai che detto più di una volta. L'altra volta ti dicevo che è un po' un imprint. Questo è un segno. Purtroppo sono gli aerei che mi danno, siccome ma sai che io ho lavorato all'aeroporto, eh? Ah, ecco, è per quello. È vero. E dunque facevo gli annunci. Passengers, se volete te ne faccio uno. Dai, facene uno in diretta. Passengers departing to Rome, already holding their boarding cards, are kindly requested to proceed to international department lounge. Qui la foto. Vai, e non è una balla. Sì. È uguale. Fantastico. No, dicevamo, il metodo Oreste, in che cosa consiste innanzitutto? Perché secondo me i nostri ascoltatori non stanno capendo niente. Allora, non è un metodo innanzitutto. È uno stile di vita. Uno stile di vita. E quindi in quel senso lì, dopo lo abbracci. In cui non si capisce. Rimane qualcosa che fa parte di te, come proprio l'imprinting di Conrad Lorenz, no? Capisci innanzitutto proprio come il metodo scientifico quello che non vuoi di non essere un gabbiano. Esatto, tipo. Non essere un gabbiano, soprattutto. Oppure Jonathan Livingston, esatto. No, dai, troppo ideale, troppo utopista. Però un modo di incontrarsi creando dei tempi medi, dei tempi familiari, un piacere dello stare insieme e un senso. Ecco, questo oggi è un po' mancante. Perché è soprattutto un senso di credibilità. La credibilità è una cosa molto difficile da raggiungere oggi, soprattutto di se stessi Facebook. Verso se stessi, no? No, infatti. Perché la cosa principale è essere credibili a se stessi, non tanto agli altri. Allora la motivazione forse va ricreata proprio nello stare insieme, ripartire non cercando il senso ultimo, ma la motivazione allo stare insieme e di lì ripercorrere quello che è anche un senso del lavoro. Io faccio un po' l'avvocato del diavolo e chiedo, ma l'arte in tutto questo dov'è? È quello che è il senso, no? Che tu chiedi. Ma io perché naturalmente la maggior parte della gente pensa, no, all'opera d'arte, al fare, all'oggetto, all'esperire l'oggetto, eccetera. E qui invece Stiamo parlando di aria fritta. L'opera d'arte in un momento di proliferare di oggetti ovunque. Reali, virtuali, il diventare oggetti a se stessi, perché soprattutto con i social le persone sono continuamente oggettificate, ma torniamo a noi, cioè l'arte non è un oggetto, l'opera d'arte non è un oggetto, è un indice, è un pretesto per parlare, per stare insieme, per modificare, e è un modo di vedere le prospettive del mondo diverso, quindi un sommario, una nota bibliografica, ma no. È un problem solving da altri punti di vista. Quindi l'arte dov'è questo? Innanzitutto bisogna ricreare dei linguaggi condivisi. Quando dici te, la gente si chiede, bisogna andare un po' più vicino alla gente, esatto. E questo sicuramente, e soprattutto far vedere che l'arte non è un decoro, non è un di più, ma forse oggi è proprio l'alternativa. Cioè il pensiero divergente, che per me è al centro dell'opera d'arte. Cos'è un'opera d'arte? Cos'è un artista? Uno che è un professionista del pensiero divergente. Cosa vuol dire? È un professionista del cambiare in continuazione di prospettiva, del farti vedere le cose da prospettive diverse, e oggi c'è bisogno di vedere le anche cose perché, da prospettive appunto, diverse. Guardiamo questi avvenimenti e o stiamo da una parte o stiamo dall'altra, che io la prima volta che successe, anzi poco prima che io e te andassimo in Iraq, era proprio George W. Bush figlio che dice: o siete con me o siete contro di me, ed è a livello di mediatico è stato secondo me quasi una, no, un watershed, una soglia, cioè dopo di una volta che passa un concetto del cazzo così, no, cioè che o sei con me o sei bianco o sei nero, o sei cattivo o sei buono, cioè ok, i film di John Wayne li avevamo visti tutti, ma non puoi applicarmi alla politica assolutamente reale. Ma infatti, non solo, posso aggiungere certo, anche una cosa certo, nella, per esempio curare questa mostra io non c'ero c'ero ma non ero una curatrice negli anni 90, e l'elemento cioè è stato interessante vedere come queste persone nel più e nel meno erano molto legate tra di loro, cioè ci sono stati dei legami umani, delle affezioni, dei sentimenti, e quello che secondo me tu dici, ok, dov'è l'opera poi ok, ognuno di noi la può creare in maniera collettiva, la può creare singolarmente lo studio, può chiudersi a scrivere, cioè poi ci sono diversi, no, modi di fare arte, però c'è una componente materiale che ci contraddistingue e che dà secondo me poi luogo alla riflessione anche in solitudine. Questa componente materiale bisogna nutrirla, ha bisogno di dialogo, ha bisogno di essere appunto di circolare, cioè è un pensiero, è una riflessione che ha bisogno di essere aperta, e l'apertura deve essere condivisa secondo me da alcuni come potremmo dire valori, chiamiamoli così. Sì. Ecco, e quello che io ho visto è un gruppo di persone che comunque si riconosceva allora come oggi intorno a dei valori che hanno a che fare non tanto con l'estetica ma con l'etica. Non con l'estetica ma con l'etica, cioè è un, secondo me sono delle pratiche in cui estetica e etica si congiungono e non le puoi. Vai. Posso fare una domanda? Certo. Secondo te è ancora possibile un legame tra un gruppo di artisti, tra un gruppo di curatori, tra un gruppo di persone che lavora nell'arte? Ma cosa certo. Fai tu questa domanda che noi siamo un gruppo di curatori? No, ma è una provocazione. Vedi, cioè Yin e Yang proprio. Secondo te, Serena, secondo me è una questione di consapevolezza, cioè nel senso che dipende, ognuno non siamo, nessuno di noi lavoriamo, siamo professionisti, quindi non sei appena uscito dall'università. Secondo me ognuno di noi a un certo punto deve capire qual è il ruolo, cosa vuole fare. Certo che esiste il dialogo, è difficile, no, però. No, io parlo di legame affettivo. Ah, certo. Cioè, per me vedere in questo momento... ma il legame affettivo però non significa che noi facciamo tutte le cose insieme, secondo me quella è la cosa, cioè ci sono dei momenti in cui queste vite si incontrano, certo. Dei momenti in cui ognuno poi va per la sua strada, si allontanano, poi si ricongiungono, secondo me questi sono dei legami. Io anche le persone, mi ha colpito che ho contattato a distanza di 20 anni, anche straniere, cioè erano comunque contentissime di partecipare, di mandare il materiale, di dare il loro contributo, anche se non vedevano magari le persone di cui si parlava da allora, perché comunque c'era un percorso comune. Credevano in un ognuno di loro ha portato, cioè come dire, ha proseguito per la sua strada, però in quel momento si è unito, giusto? Poi dimmi tu, Annalisa. No, ma non solo è possibile, è necessario, secondo me. Che è diverso, è necessario, ma sul fatto che sia possibile io ho qualche dubbio. Allora te la rigiro a te la domanda. Rigiriamo a lui la domanda. Per te è possibile, visto che lavorate? È molto difficile. Secondo me ha ragione tutti e due. Cioè nel senso che allora è fondamentale per ridare spessore ai lavori e anche a tutti i rapporti che ci siano degli incontri. È il motivo per cui è rimasto, per esempio, nella mia vita, cos'è rimasto di Oreste? Una pratica, uno stile di vita, un contimac, un buco enorme, è vero, con questa novella guerra, dove ho deciso di prendere una casa che diventasse non una casa, ma un posto, un po' un porto di mare, che poi è diventato un progetto che non è più solo la casa, ma un modo di essere progettuale. Splendido progetto, quindi Novella Guerra, vabbè, il nome di mia mamma, quindi un motto di praticamente è una sorta di grido di resistenza, una nuova guerra, una nuova resistenza, ma fondamentalmente la ricerca di creare un posto, un locus ameno che non sia troppo lontano, ma che crei proprio la possibilità di incontrarsi. Nello stesso tempo che uno dichiara questo, tutta anche la difficoltà, perché voglio dire, cosa vuol dire essere indipendenti oggi? Cosa vuol dire creare degli spazi indipendenti? Perché non vuol dire negare il mercato, non vuol dire negare la galleria, non vuol dire creare uno spazio che debba essere al di fuori totale del sistema. Vuol dire tante cose, ma la prima cosa dell'essere indipendenti vuol dire essere proprio in grado di avere delle relazioni che non creano delle dipendenza, ma creare delle relazioni che allarghino le possibilità di dialogo e quindi anche le possibilità affettive. Perché se tu sei dipendente, in qualche modo sei sottoposto o preposto a qualcuno, si creano delle gerarchie. Se invece vuoi creare dei rapporti affettivi, come tu dicevi te, orizzontali, ma io lo auspico, con comunicazione, sono percorsi molto lunghi e difficili. Ma soprattutto ci vuole il confronto, ci vuole umiltà, ci vuole continuità. Cosa che è difficile soprattutto a livello logistico, non solo a livello mentale, a livello logistico. Tu siamo presi da 200 attività e dei momenti di qualità, metterli insieme non è così semplice. Guarda, noi di Adiacenze lavoriamo con gli artisti emergenti, quindi abbiamo a che fare quotidianamente con ragazzi dai 25 ai 28-30 anni, ok? Quotidianamente. Per me immaginare tra di loro un legame affettivo umano. Ti viene anche da ridere mentre lo dici. Sì, sì, sì, mi viene da ridere perché sono. Forse perché non hanno più. Questo io allora lo chiederei ad Alessandra, perché prima perché dicono prima si erano presentati come in silenzio, il gruppo giovane. Esatto, noi siamo il gruppo giovane. Il gruppo giovane. Noi, ad esempio, allora, noi di Taz, Temporary Art Zone, Annalisa, se. Si è perso questo passaggio, e io insieme a Giancarlo Marangoni, Taz è un progetto che è nato da pochissimo come associazione, ma che in realtà è già conosciuto a Bologna, o comunque chi l'ha conosciuto tramite arte a domicilio, quindi già arte a domicilio, non ci sono diciamo alternative, e lì è proprio l'arte portata in casa, che come dicevo prima a qualcuno non è sicuramente un'idea innovativa, rivoluzionaria, perché sia come luogo, come lo spazio domestico, come luogo di incontro tra artisti è noto storicamente, ma anche perché poi ci sono tantissime realtà che lavorano in questo modo. La differenza sta proprio nel rispettare quello che si è appena detto, cioè nell'essere non dipendenti da un sistema, e lì in quel caso per noi il luogo diventa fondamentale, ovviamente, trasportando poi, cioè invitando il pubblico a vivere l'arte, e così come gli artisti ad esporre in un contesto che ovviamente è ben differente da quello che può essere una galleria o comunque un luogo. E si crea un legame affettivo? Assolutamente sì, per noi diventa fondamentale proprio quel legame, perché piuttosto che di per sé l'evento, l'esposizione fine a se stessa, anche perché poi è temporanea, quindi nella durata veramente di una serata, in luoghi, in case che cambiano di evento in evento, e quindi sai specifico, si lavora sul progetto in base alla casa o al contrario, questo non è un problema. Più che altro è la relazione quello che ci interessa. Tra gli artisti giovani, emergenti, ovviamente che diciamo. Diventa. Facciamo una foto. Sì, perché sì. Possiamo dire che negli spazi indipendenti c'è dell'amore. No, sicuramente. Fino ad ora c'è tanto love. No, allora, fino ad ora non abbiamo mai assistito a una rissa, però nel senso. Aspetta. Però noi cerchiamo. Noi ci hanno fatto la pipì in giardino. No. Quello è amore. Dato che ci sono molti giardini, è possibile. No, vabbè, però l'idea di poter invitare anche magari due artisti che lavorano in maniera differente, cercare di creare un evento che sia possibile per loro vivere insieme, ricordandoci sempre del contesto in cui ci troviamo e con il pubblico diventa fondamentale, e per adesso le reazioni sono molto positive sia da parte degli artisti, sia da parte delle persone che partecipano ai nostri eventi, sia da parte degli abitanti della casa, perché poi anche lì la persona che ci odia, le persone che ci ospitano ci danno la possibilità comunque di usufruire di uno spazio che è privato, e anche lì si crea comunque una sinergia tra artista, abitante, ospite, fino a far diventare un tutt'uno. Poi certo le ambizioni ne abbiamo diverse e si spera di crescere e di rispettare sempre poi questa idea di base di condivisione poi non è soltanto interna agli eventi stesso, ma è alla città di Bologna in generale, quindi a tutte le realtà creative che esistono. E infatti l'invito di Serena in occasione di Oreste è stato per noi comunque bellissimo, cioè anche proprio per essere una realtà appena nata e giovane, come dice sempre Giancarlo, però di per sé, ecco, tanti sogni adesso ci sono, poi ovviamente chi ha più esperienza dice aspetta un attimo, vediamo un po', però diciamo che vogliamo un attimo, non ti voglio tirare giù così. No, non ci facciamo la testa, però l'idea è comunque cercare di preservare l'autenticità. E adesso io invece vi interrompo perché alle 20:40 si è già in ritardo di un po', ma poco, e a questo punto bisogna menzionare le cose che succedono domani, dopodomani e entro alla prossima puntata di Coxo Spaziale. Da adesso fino a sabato solo a mezzogiorno, per cui non c'è tanto tempo per andare a vedere questa mostra, c'è la raccolta di fondi per Esmeralda, mostra personale di Eldi Vezai. Lo conosci? Come no? Per sua sorella Esmeralda. Esmeralda Vezai ha 37 anni, mamma di due splendide ragazzine, Francesca, c'è anche proprio tu, e ahimè da 2 anni lotta con un tumore molto aggressivo che purtroppo si è stesa alle ossa, sta arrivando al quarto e ultimo stadio. È per questo che vorremmo portare Esmeralda a Bologna urgentemente, dove suo fratello potrà accompagnarla nelle ottime rinnovate strutture sanitarie della regione. I soldi che raccoglieremo saranno usati per portare e curare Esmeralda in Italia, per ridarle così il suo splendido sorriso. Tutti i quadri e disegni dell'artista Eldi Vezai saranno in vendita a metà prezzo, e questo è allo spazio B5 in vicolo Cattani 5B a Bologna, ieri, oggi e anche domani. Invece poi la seconda cosa da raccontare è che sia da adesso fino a domenica 30, per cui non anche qui, abbiamo Bologna Incantata, un weekend di improvvisazione contact nelle colline bolognesi alla Casa del Paleotto a Rastignano Bologna. Danze, apparizioni fantastiche, giochi per 3 giorni e 3 notti da sogno di mezz'estate. Jam underscore contact eccetera eccetera eccetera, e ci abbiamo naturalmente anche la nostra fantastica Fedra Boscaro, che è non è qui perché è là che sta facendo contact con Anna Albertarelli, Michele Marchesani, Caterina Mocciola e Giacomo Sacenti. Ciao Fedra. Mentre invece leggo sulla porta che è da ricordare in diretta che sabato c'è la festa di Radio Città Fujiko. Io ahimè non ci sono, dalle 15 alle 2 di notte parti in piscina con i nostri DJ, ma non io e forse neanche Fedra. Non ho capito cosa c'è scritto, l'internazionale Trash Riselle, pizze al forno e aperitivi in via di Roveretolo all'agriturismo, 6 pioppi, uscita 5 della tangenziale, portate. Ma non è questo sabato. Hai ragione, sabato 6 luglio. Non è questo sabato, però è sabato dopo, portate il costume. Sei troppo avanti. Sono troppo avanti, hai ragione. Questo sabato è solo il 29. Oggi è il 28, no? Quanti ne abbiamo? 28. Non lo so, ho perso il No, molto ma te bene. Lo dico perché anche il mio compleanno è sabato 6. Voglio il jingle. Piripì. Aspetta. Abbiamo jingle di compleanno, No. Aspetta, però te lo facciamo sabato prossimo. Adesso ti faccio solo questo. Buon Grazie. Compleanno sabato prossimo. Sabato 6 luglio, sabato che poi arrivano cavoli, anche arrivano tu sei i regali. Sono un cancro. No. Sei un cancro anche tu. Ok, come tanti. Come tanti. Come tanti. Io ho due figli cantano. E quasi stendendomelo. Esatto. Che saluto, bellamente. E così, e dove eravamo rimasti? Abbiamo fatto questa cosa, metto un pezzo, dai. No, aspetta, sì, dai, dimmi tutto. Annalisa. No, prima si diceva gli artisti giovani se hanno magari questi rapporti. Ci siamo dimenticati però di ricordare il fatto che quando uno è appena uscito dall'accademia o è un giovane artista, è proprio il momento lì che è meno pronto a relazionarsi e che ha bisogno che altri lo aiutino a capire che è importante relazionarsi. A me Oreste fu proprio illuminante, perché quelli più grandi di me mi fecero vedere cos'era la relazione, perché tu esci dal famoso sistema educativo italiano e anche un po' italiota a volte, mm-hmm, fantastico rispetto a tanti altri sistemi educativi in termini di contenuti, per cui ma molto limitato a livello di lavorare in squadra, lezioni frontali, posizioni antagonistiche e quindi no, è molto, quindi Mariano, tu, no, è non, vero, siamo, è non quindi, siamo in TV, siamo in radio, arrivi dalla scuola. E quindi come scuola tu arrivi dall'accademia dove ti fai un po' le scarpe, quindi non lo puoi chiedere al giovane artista se si sente di avere possibilità di relazione, è che è già un po' in strada, che deve far capire che la differenza nello stare dentro un percorso artistico parte soprattutto dalla relazione, e quello darà valore etico, come diceva un po' Serena. Perché non lo puoi chiedere? Perché il giovane artista per assurdo è molto vecchio da un punto di vista, va svecchiato da un punto di vista di quelli che sono i metodi e gli stili, perché ne ha uno di stili. Ma io voglio ascoltare Amerigo. Perché voi non vedete la faccia, sì. Annalisa, tu hai ragione. Però ha la sindrome da bravino della classe, capito? Ha la sindrome da liceo scientifico. No, Annalisa, questi a 25-26 anni si sentono già, cioè non si sentono, sono già manager di se stessi. E quello non hanno voglia, ma questa e sono vecchissime, perché oggi essere manager di se stessi, quando in tutto il mondo l'essere artista non è tanto solo partecipare a una galleria, che va benissimo, ma far parte di gruppi di ricerca, se tu pensi di essere manager di te stesso, vai alle poste. Ah, ma guarda, noi costantemente ripetiamo quella frase, anzi, vai a vendere assicurazioni. Assolutamente, non è quella la strada, non è quella la strada, no? No, ma guarda, ti assicuro che noi cerchiamo di instradarli, proprio lì dove dicevi tu, ma è sempre... Cioè, li mettete in un incrocio e li fate attraversare. Le poste, ti assicuro, esatto, che è veramente difficile adesso, più di 10 anni fa, no, quando abbiamo iniziato. Ma poi le poste, esatto, non è corretto le poste, perché è già un lavoro molto di team. Infatti. Cioè, assolutamente, no, sbagliato. Secondo me non è sbagliato, però... La banca. Amerigo, devi capire che io e te, quando siamo partiti 10 anni fa, avevamo più o meno l'età, erano già un po' più vecchi, degli artisti che esponevamo. Mo siamo i nonni degli artisti che esponiamo, non c'è più quella cosa. Ragazzi, mi sta venendo voglia di fare la cacca sul tavolo. Falla. Però, cioè, un momento adolescenziale. No, io sono con l'Orestiana. Orestiana? Orestiana. Come vuoi. Che però ha portato... Prima eravamo molto anarchici. Io sono con Veronica, che a me mi voglia di fare la cacca. No, è arrivata. Tu dalla finestra, ti prego, col culo fuori. Ecco. È arrivata Annalisa e ha dato tutto un quadro bellissimo della situazione. Per cui ti sei messa in piedi. Sì, no, basta, seduta, fa un po' caldo. Io, ad esempio, ho frequentato l'Accademia di Belle Arti. Quindi, dove? A Perugia. A Perugia non c'è l'Accademia di Belle Arti. Scusa, no, è una piccola ridente cittadina, okay. Sì, però mi sono laureata nel 2012, vabbè, a distanza di ovviamente tanto tempo e tanto tempo fuori corso, perché poi per rispettare la tradizione, esatto. È difficile, però bisogna anche contestualizzare prima di tutto di quanto sia cambiato anche adesso essere e uscire adesso, perché anche rispetto a 10 anni fa uscire dall'accademia era diverso uscire adesso, così come anche il piano formativo era completamente diverso rispetto a quello attuale, e sicuramente anche le possibilità per chi usciva da subito erano sicuramente diverse. Però io sono perfettamente d'accordo con te che secondo me sia adesso come allora non so se sia una condizione solo italiana, però sicuramente italiana quella che conosco, non dà all'interno dell'Accademia la possibilità di relazionarsi proprio all'artista, cioè nel senso non c'è un percorso guidato che possa essere. Secondo me state facendo una distinzione un po' fuorviante, e state facendo distinzione fra relazione col mercato e relazione umana. No, assolutamente no. No, quello che si sta dicendo era che quando un giovane artista arriva a misurarsi per le prime volte, viene comunque da un'esperienza più lunga rispetto all'economia della sua vita nel sistema educativo, da cui magari a volte tolgo anche l'accademia, molto spesso, ma il sistema educativo a partire proprio dalle scuole elementari, relazione medie, umana, superiori, che dove la relazione umana non viene promossa. All'accademia già, in molte accademie si cerca di avere un momento wow scoperti, in alcune accademie c'è chi lo sperimenta il movimento wow, no? Per dire, per me fu un momento wow, perché facevo l'accademia e lingue e letteratura straniere, due mondi belli tutti e due, però l'accademia era più dove un posto dove ho cominciato a intessere le prime relazioni. Però non ti strada ancora ad avere proprio delle esperienze relazionali che le metti insieme, invece dopo, quando cominci a misurarti anche col sistema, anche di mercato, no? Non si vuole fare una separazione di quello. Secondo me è proprio lo stile con cui tu hai abitato la cultura, capito? Cioè l'apprendimento con cui ti sei misurato con gli altri, l'educazione è molto importante, di come tu arrivi, ne arrivi fuori e dopo ti inserisci per la prima volta, che sei tra virgolette giovane, ma sei giovane ma sei vecchio perché sei figlio di antagonismi, di piccole gare, di confronti, no? Io sono sempre in confronto con Amerigo, anche in gara. Rimango sempre, vedi, siamo sempre giovani, infatti, mi piace moltissimo. Però magari puoi inserire te qualcosa. A proposito della cacca sul puoi inserire tu qualcosa rispetto invece a questo che tu vedi come problematico, capito? Se tu vedi questo come invece un problema. Io non vedo un problema nello specifico a livello formativo, io lo vedo più come un limite umano, quello della relazione, in qualsiasi ambito in cui tu ti formi. Ci sono problemi relazionali, se tu hai dei problemi relazionali, se non hai problemi relazionali non hai problemi relazionali, ed cioè, la società diventa un luogo fantastico da abitare, tutto lì, cioè, no, Pasquini, però se la fai quella faccia, cioè, la faccia e dunque la nostra società non funziona perché abbiamo problemi relazionali, dici? Sì, ok. Sì, volevo se bene. Questa è la mia visione. Ah, interessante, no? Devo dire che. No, non ci avevi mai pensato. No, cioè, sì, no, io capisco quelli. Cioè, vedo problemi relazionali in giro, ma non credo che i problemi della nostra società siano solo problemi relazionali. Però effettivamente può essere. Un buon punto da cui partire. Un buon punto da cui partire, sì. Partiamo sì, da un tautogramma. Partiamo da un tautogramma, CROP, crop. Sì. Carogne e raminghe operano palesemente come ragni operosi, pretendendo capire rituali, opere, passioni. Chiaro, riflettente, opaco, piacente, centro rigenerativo oppure putricente. Come rimanere obnubilati permanentemente? Chiavi rotte o perse, cisti rampicanti o pendenti, chi rischia ora permane, costante o piangente, costante. Piangendo o ridendo, consapevole, resiliente o transista perverso. Circo randagio ossessivo promette centrifughi, rigiri olistici per cervelli rapidi. Oh porco cane, rigurgito ostriche per cena. Rimanendo ovviamente perplesso, cerco rifugio ove piove. Crop, resisti o perisci. A questo punto scatta l'applauso perché... A parte il fatto che mi hai spaccato un timpano perché non hai la cuffia, per cui non sentivi quanto forte era la tua voce, ma va benissimo così. Era declamato. Non saprei cosa mettere. Faccio un altro. No, anche perché il tempo, il tempo sta stringendo abbastanza. Abbiamo tre minuti per trarre le conclusioni, le non conclusioni di questa serata. A me ha fatto venire in mente una citazione dal libro che avevo scritto con mio nonno. Angiolello da Verona. Angiolello da Verona. Certo. È un caldo maiuscolo. È un caldo maiuscolo. Scatta l'applauso anche. Bello. Comunque, invece, a questo punto cito mio nonno e dico a. Che effettivamente questo problema, questa cosa dei problemi, questa idea che tutti i problemi del mondo siano problemi relazionali non è neanche il diavolo. Eh no, è anche vero. Beh, io non mi riferivo ai problemi del mondo, dai, su via. Su via, allora non ti ho capito. Forse non mi sarò spiegato bene, non sarà un problema di ritorno in cuffia. No, secondo me è un problema di microfono basso, il tuo. Ma è un argomento poi di fatto che accomuna tutto questo essere qui, no? Il fatto di cos'è poi una relazione. Cos'è una relazione? C'è bisogno di creare delle nuove modalità di relazione, no? Sì. O di riscoprire anche delle cose. Io, per esempio, la grammatica delle relazioni, per me dobbiamo proprio. Ci aspettiamo che ci sia una sovrastruttura che ci dia la modalità di trovare, di creare delle relazioni. Dobbiamo riscoprirle, proprio rifare la grammatica anche del convenevole, no? Cioè, anche i convenevoli, no? Dirsi ciao, grazie, sì, è piaciuto quello che hai fatto, cioè sembra è andato fuori moda, no? Sì, esatto. Invece facciamoci convenevoli, cioè salutiamoci, la risposta buona educazione, sembra veramente che esatto, hai un pezzo di spinacio nel dente. I baci ma secondo te è possibile ritornare alla buona educazione? È necessario, possibile, si deve passare di lì, se no diventiamo dei bruti. Dei bruti. Dei bruti. Il vintage di moda. Bruti. Quello poi arriva Jon Snow e prende a tutti i bruti. Vabbè, no! No, per esempio faccio pubblicità a Gino, no? Fai Gino adesso Gino. Ha fatto, domani c'è questo déjeuner sur l'herbe. Se ne parla possibile. Se ne parla domani. È domenica. Dimanche. È dimanche. Allora, dimanche il orario è petit déjeuner sur l'herbe. Francese anch'io su Duolingo. Allora, ecco, per esempio, quello mi è piaciuto come iniziativa. Sì. Cioè il fatto di, anche lui ha questo luogo dove abita, ha deciso faccio una mostra, no, faccio una festa, no, faccio una allora ci si ritrova, ripartiamo dall'incontro, di lì cominciamo dei discorsi e poi no, tu lo sai che domenica prossima, oddio, l'indirizzo è l'indirizzo, cercalo. Ah, perché così è aperto, guardate Gino Giannuizzi su Facebook, no, ma domani su www.coxspaziale.blogspot.com esatto. Troverete il link anche se Gino non vuole e così saremo in 500 e così è stato anche Oreste, partito da una residenza dove si sono create delle necessità di relazioni tra persone che erano diversamente abili nella relazione, diciamo così, sì. Cioè c'era chi era più espansivo, c'era chi era più introverso, però in fondo ci teneva alla relazione, l'ha portata avanti. Ma sai, soprattutto credo che sia importante, oltre che la relazione, l'ascolto. Cioè quello è l'ascoltarsi, anche il cosa pollice che non su, si pollice fa. Giù, non si fa. Ma in che senso dici? Dobbiamo senso, salutarci, sono i 57, io vi ringrazio tutti, addirittura di là fai 59. E qua c'è il fuso orario. Oddio, non volevo fare questo, no, quello che invece volevo fare era, come al solito, mettere le parole del nostro presidente che dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Questo era Coxo Spaziale, ci vediamo venerdì prossimo alle ore 20 sempre su Radio Città Fujiko. beers are free. Don't bother me if I fall asleep. This is just the way I'm about to always be. Lost in our streets, fired in my cheeks, like your love. What we are, Venus and Mars, and everything's fine. We never be the same, but we'll always be lost in our streets, by the Montreal.